Buongiorno Willy, buongiorno amiche e amici del Move to Groove. Con un lieve ritardo facciamo gli auguri a uno dei più grandi pivot della storia del basket, sicuramente il migliore della Lega ABA. Lui è A-Train, o l'artiglio per quel di Bologna. Spegne 75 candeline, Artis Gilmore. Amiche e amici sportivi e non sportivi, quindi facciamo gli auguri a The A-Train, Artis Gilmore, grandissimo centro, grandissima persona, e oltre a essere atleta che ha portato motivo di lustro per la F scudata, ha avuto anche successi in NBA con i suoi Kentucky Colonels, è stata prima scelta nella Dispersal Draft del 1976 allo scioglimento della ABA e arriva ai Chicago Bulls e continuerà con grande forza e quando pensate ad Artis Gilmore, per chi lo conosce, a me la prima cosa che viene in mente, un grande professionista. E il tema della professionalità sarà quest'oggi per questo Move to Groove, un pochettino ridotto però carico di intensità, per dare il buongiorno anche a un altro professionista nonostante le assenze, ormai giunto alla stagione da sophomore, il nostro Pietro Rossi. Buongiorno Pietro. Buongiorno, siamo partiti quest'anno ai box come un infortunio, ma ora siamo playing time. E infatti hai sempre portato attenzione per le tue condizioni nella partecipazione del Mood Groove e seppur con qualche puntata di ritardo, decisamente un atteggiamento molto professionale. Grazie. Cos'è per te, Pietro, la professionalità? Essere professionale in qualsiasi attività? Ci ho pensato quando mi hai detto il tema della puntata. Il primo pensiero che ho avuto è puntualità. Puntualità. Ho fatto un buco radiofonico di silenzio perché verrei lì e ti abbraccerei, guarda. Questo per me è un aspetto fondamentale della professionalità, ma non solo, c'è tanto. Ma ti direi della vita. Sì, è un aspetto fondamentale, come ben sapete il Move to Groove porta parallelismi non solo per la pallacanestro ma anche nella vita. Io vi assicuro che Artis Gilmore, per quella poca esperienza bolognese che ho avuto modo di conoscerlo, una grande disponibilità, una grande serietà, una forza come esempio anche di professionalità per quello che è abnegazione, presenza, una sicurezza. Ma gli ambiti della professionalità non sono, in questo caso sono paralleli al talento, ma non sempre corrisponde al grande talento, come ben sapete, e non sempre corrisponde anche alla grande passione. Uno può avere una grande passione, però poi alla fine, andiamo a mangiare la pizza, ecco, uno può avere una grandissima passione, dai ragazzi, stiamo in compagnia, facciamo forza, e poi come professionalità lascia decisamente a desiderare. Questo purtroppo succede in diversi ambiti, ma tornando ad Artis Gilmore, un titolo con i Kentucky Colonels in ambito ABA arriva a Chicago, dove porterà una presenza a rimbalzo fondamentale, dove porterà un ostacolo ai tiri avversari con i suoi 218 centimetri di statura e una fisicità d'acciaio. L'unica volta che ho avuto modo di stringere la mano ad Artis Gilmore, per la prima volta ho avuto paura per la mia mano, perché anche se non ha stretto eccessivamente ma in maniera decisa, ho avuto proprio la sensazione: questo, se vuole, me la riduce in poltiglia. Capito? Altri esempi di professionalità, ad esempio Leon Douglas, ecco, non è stato un grandissimo talento, esatto. Un professionista. Tu sai cosa aspettarti da un giocatore con l'impegno. Arriva a giocare in Italia, non è che dice, ok, sono in Italia, che bello, mangio i tortellini tutti i giorni, che bello, ci sono tante realtà storiche di intrattenimento. No, arrivo a giocare in Italia e l'affronto allo stesso modo di quando ero centro titolare nei Detroit Pistons. Questa è professionalità. Per l'Italia porto anche qui l'esperienza personale, un grande professionista è stato Vittorio Ferracini nell'ambito cestistico, anche lui una figura che dava sicurezza e un esempio anche per me. La puntualità è la prima parola che mi arriva quando si parla di questo aspetto. Uno può essere un grande talento ma non essere molto professionale, e non solo in ambito sportivo, come ben sapete la professionalità è qualcosa che comprende in maniera estesa la sensazione di poter dare quella sicurezza fondamentale nei percorsi, esattamente, anche di lavoro o perché no di studio, anche radiofonici. Assolutamente. Di grandi centri di un tempo, di solito il nome di Artis Gilmore difficilmente esce, però grazie alla sua professionalità e al duro lavoro, secondo me Willy per 2-3 buone stagioni dietro a quel mostro sacro che giocava a Los Angeles Sponda Lakers, Artis Gilmore per impatto offensivo difensivo, cioè veniva solo secondo proprio a Kareem Abdul-Jabbar. Lui per me era veramente al top dei top in quel periodo lì, fine 70, primi 80. Professionisti in ambito musicale come Weldon Irvine, che stiamo ascoltando con questo lavoro che ha avuto un'estensione tipo un vapore di un bagno turco, come potete ascoltare. Turkish Bath è il titolo di questa suite tra il funk e il jazz. Assolutamente concreto, dà un esempio di professionalità a questo musicista, in quanto non certamente una prima linea, ma che si è sempre applicato con proposte interessanti. Quelle proposte poi che venivano raccolte in Rare Groove dalla C-Jazz, di cui prima vi abbiamo parlato. La professionalità di Artis Gilmore è anche nella sicurezza a conclusione, cioè la palla consegnata ad Artis Gilmore 7 volte su 10, se non di più, era a bersaglio, a canestro. Ok, erano conclusioni sotto misura poi per una stazza tale, però avere un atleta che porta al tiro percentuali del tipo 8 su 10, direi che è una bella sicurezza. Su 10 tentativi ne realizza 8, insomma, anche come terminale offensivo, ok, erano finalizzazioni certe e diciamo ravvicinate, però bisogna procurarsele. Condividi condivido quello che ha detto Paolo nel periodo. Lui è un anello di congiunzione tra la pre-rivoluzione cestistica e la rivoluzione cestistica degli anni Ottanta, e poi passerà ai San Antonio Spurs e anche lì farà ottime stagioni da All-Star Game con un quintetto base fortissimo a fianco di George Iceman Gervin, Mike Mitchell, compianto professore di pallacanestro, Eugene Banks, che abbiamo visto in Italia sempre sponda Fortitudo. Sai cos'è professionalità per me? Poi concludo e passiamo a un'altra palla 2 importante, per dare esempio con un lungo e un esterno a questa parola. È il timore o rispetto, mi spiego meglio con il contenuto timore. Il timore non deve essere paura o panico. Il timore è il rispetto per quello che si sta facendo e non è certo lasciarlo in modalità di essere sottovalutato. Faccio l'esempio pratico: se attraversiamo la strada e lo facciamo in maniera superficiale, sottovalutando tanto devo semplicemente attraversare la strada e mi butto, non porta bene per quanto riguarda raggiungere l'altra parte, si rischia di essere investiti. Se abbiamo un panico o paura, oddio, ma quando attraverso? Aspetta, ho paura, aspetta, non attraverso mai. Se tu hai quel timore, quel rispetto per quello che stai facendo, è probabile, anzi, vi garantisco che è certo, proseguire nella nostra passeggiata. In questo caso è una passeggiata di vita, è una passeggiata che lo sport probabilmente può insegnare anche in altri motivi fondamentali di applicazione altrettanto pratica come il lavoro e, perché no, anche lo studio. Tu che sei giovane e tra l'altro hai avuto di recente esperienza scolastica, Pietro. Sì, secondo me c'è una professionalità nello studio. Sì, nello studio è il discorso, no, della dedizione, della costanza e del, secondo me, centrato il punto, timore, dove timore è sinonimo di rispetto per quel che si fa. Se c'è un rispetto verso quel che si fa, ora userò un termine un po' sospetto, se c'è un minimo di disciplina rispetto a quel che bello si fa. Questo, mi aspettavo un francesismo non proprio ortodosso. No, assolutamente. Questa, in effetti fa più paura, esatto, la parola, no, disciplina. È un po' sospetto, è un po' soprattutto ambigua di questi tempi. Esattamente. Però secondo me, che appunto si riallaccia a quello che dicevi te, nel momento in cui esiste una... un rispetto, appunto, perché secondo me cadere nello stereotipo della c'è passione, sì, ok, la passione serve fino a un certo punto, perché bravo, poi alla fine bravo subentra la dimensione del dovere, perché lo devi fare e lì ci serve la dedizione. E guarda, è una chiosa perfetta per questo primo tempo del Move to Groove. A tra poco, perché noi, come vi ho detto, abbiamo due esempi, uno con la parte da lungo, da centro, e un altro con il ruolo da esterno, e sono veramente due fenomeni, Oddo, che scriva al 333 1809 494. Accidenti, che fortitudo che mi stai facendo venire in mente. Altri tempi. Alla tromba Marcus Belgrave, per quanto riguarda l'astral spiritual jazz. Certo, una propensione jazzistica legata anche al free, che può portare erroneamente al pensiero, sì, ok, free jazz, una narrazione libera. No, no, assolutamente. Lo stesso Ornette Coleman diceva: non mi piace il termine free jazz, perché il free jazz ha delle regole ben precise. San Antonio, che a fine 70, primi 80 era una buonissima squadra, quasi sempre arrivava alle finali della Western Conference, ma però finiva sempre battuta da quei Lakers di Kareem Abdul-Jabbar, in quanto non c'era un avversario degno di contrastare Kareem. E fecero carte false pur di prendere Artis Gilmore da Chicago, ci riuscirono, però perdendo praticamente niente, perché in cambio gli diedero Dave Corzine, un mestierante e niente più, come anche Holberding, ma purtroppo non riuscirono mai a battere questi Lakers veramente forti. Allo Showtime ci hanno provato i San Antonio Spurs con i vari Johnny Moore, Ice Gervin, Mike Mitchell e appunto Gilmore, ma non ci riuscirono. Oltre ad Artis Gilmore, facciamo gli auguri di compleanno alla guardia più completa dell'era pre-Michael Jordan. 67 candeline per lui, Sidney Moncrief. Che esterno che abbiamo scelto, grazie Paolo. Avrete contributi anche visivi sulla pagina del Breakfast Club, oltre che sul profilo mio personale, per queste due immense figure tra pre-rivoluzione cestistica e pieni anni di grande forza. Per me la pallacanestro, quando veramente meritava di essere chiamata pallacanestro. Sidney Moncrief poi è stato un giocatore seminale, è stato un giocatore moderno, è stato un giocatore esemplare, un esempio difensivo. La sua forza, pensate, ma non cadete in inganno, non solo quello, la parte difensiva. E qui con professionalità arriviamo a un altro argomento: saper fare bene e dare classe anche alle cose che magari non sono più visibili, non sono esattamente quelle, non dico sporcarsi le mani, però avere una capacità di impegno anche nelle parti meno visibili, ecco il primo termine che mi viene a mente, e farlo con la stessa professionalità con cui si farebbero le altre. Esatto, diciamo riuscire a fare quel che magari non è altrettanto celebrato, ma farlo nello stesso modo. Sidney Moncrief è il primo difensore dell'anno della storia NBA, premio che lui vince nell'83 e rivincerà nell'84, è il, ovviamente nei primi quintetti difensivi della storia della Lega, è il primo, non il primo, però è il grande two-way player, come lo chiamano, sì, gli americani, quindi che sa attaccare, che sa difendere, una carriera passata tutta ai Bucks, dei cui hanno ritirato il suo numero, il 4. E tendenzialmente dopo questa carriera passata ai Milwaukee Bucks, insieme a Marcus Johnson, insieme al grande altro professionista eccezionale Junior Bridgman, che poi diventerà un grande imprenditore, e Marcus Johnson magari un po' meno professionale, però il talento gran che all'epoca, sì, un saltatore, saltava come un cavallo, ma mica solo, grande uno contro uno, poi se lasciava spazio da 5-6 metri la metteva, veniva definito all'epoca la realtà più simile a Dr. J, a Julius Irving. Gran giocatore Marcus Johnson, oltre che molto ammirato dalle tifose, uomo all'epoca molto bello. Lo sai che oggi Marcus Johnson è il commentatore per la TV locale di Milwaukee, dei Milwaukee Bucks? Beh, se lo merita. E continua a fare, almeno questo io ti parlo del 2016-2017, uscivano aneddoti di lui che continuava a fare il piacione ma al palazzetto. Ma non ho dubbi. Sidney Moncrief, grande atleta, una scelta alta. Faccio una piccola divagazione su Gilmore. Sai che è stato scelto con una scelta bassissima, cioè al settimo giro? No, ma veramente molto, molto sottovalutato. E anche per quello che scelse poi il percorso nella ABA. Fu sempre scelto dai Chicago Bulls, però veramente mi pare al settimo round, una cosa veramente molto, molto sottovalutato. Moncrief nel 79 invece esce come quarta o quinta scelta assoluta. Avevo letto riguardo nella preparazione della puntata, addirittura Jerry West nel famoso draft di Magic ebbe un attimo il dubbio, perché wow, era lo stesso draft di Sidney Moncrief, sì, e disse prima scelta Magic Johnson, questo comunque tanta roba, ci poi piango un po' dietro, esatto, poi fece bene, però Però comunque già solo l'essere arrivati al dubbio. Sì, e il backcourt, cioè la coppia di guardie nel mio quintetto personalissimo di vero basket in ambito di anni 80, primi anni 80, le due guardie sono Magic Johnson e Sidney Moncrief. Due particolarità prima della conclusione per questo atleta che, allora, intanto non so per quale motivo è stato inserito molto tardi nella Hall of Fame. Questo è una caratteristica, forse perché per le vittorie di campionati, di anelli. Posso dirla? Secondo me esiste una storia della Hall of Fame dove fondamentalmente molti cestisti degli anni 70 e dei primi anni 80 sono stati trascurati, sì, rispetto ad altri. Ce n'erano tanti buoni. Esatto. E quindi, ma per esempio Gilmore arriva in Hall of Fame solo nel 2011 e Gilmore, era Hall of Fame, ce l'aveva ben prima del 2011. E poi mi hai parlato di un aspetto particolare che non sapevo, e con questo arriviamo alla conclusione con Sidney Moncrief, che chi l'avrebbe mai detto, però indubbiamente in America va molto in questa America attività. Va molto, ed di cosa si occupa? Ed è sinonimo di grande professionalità. Sidney Moncrief è una sorta di life coach, ossia una di quelle persone che ti spiega un po'. Dai ragazzi, che ce la facciamo! Noi italiani, secondo me, guarderemo sempre con scetticismo a queste figure. Negli Stati Uniti, che è un'altra cultura, un altro discorso, lui ci ha fatto un business enorme, tanto che ha scritto tipo, leggevo ieri, 12 libri. Pensa a te. Sì, sì, si parla, no, di un'industria attorno a questo ruolo di Sidney Moncrief. Ovviamente parte dalla sua esperienza di grande professionista sul campo da basket, e poi lui l'ha portata avanti a livello di consulenza, di supporto. Ha scoperto una professionalità che ha delle grandi attinenze comunque con lo sport della pallacanestro. Sì, noi siamo avvezzi a sottovalutarla, però, come hai detto giustamente, magari negli Stati Uniti è qualcosa di più. Arriva anche Lino. Beh, Willy, diciamolo ad Oddo che la migliore F è stata quella di Caroldi e Spizzichini. Io non so chi siano, però leggo testualmente. Intanto ringrazio Lino. Per me la miglior fortitudo è stata come le belle cose, durata sul giorno come le rose. È stata quella di Bill Garnett, Wallace Bryant, Morris Masetti, Daniele Albertazzi, George Bucci. Quella appunto dalla A2 arrivata sconfiggendo i cugini della Virtus in serie A1 con questa magica e gloriosa, indimenticabile vittoria. Perdonatemi, ma per me vale 1000 scudetti. Questo è stato il termine di Basket City, secondo me, che nasce con la stella della Virtus nel 1983-1984, finisce con la vittoria nel derby playoff che porta a conclusione i gloriosi anni della città di Bologna. Da lì in avanti, insomma, è stato un pochettino discutibile il percorso cestistico, seppur con dei successi immensi, l'arrivo in Europa, la normalizzazione e tutto. Però non è che io voglia sempre essere quello, no? Quando si ha 15 anni, 16 anni, com'era verde la mia valle, no? Però no, secondo me te sei sfortunato, perché sei una in quelle situazioni dove hai ragione. Quindi vedi, ti ringrazio, è difficile, hai capito? Scusa Gianluca, io confondo sempre l'immagine che hai con quella di Lino. Grazie Gianluca, perdonami. Sai perché? Perché hai un bellissimo cagnone anche te, anche tu, nella copertina della piattaforma WhatsApp. Entrambi, beh, insomma, una carezza. Come si chiama questo bellissimo esemplare? Così saluto anche lui. o lei. Ah, Salomè, è una lei, bellissimo nome, grande Gianluca. Ciao Salomè. Ciao Salomè, una carezza a te, una carezza anche a Wolf di Lino. E alle 8 e 28 minuti siamo giunti alla conclusione di questa pillola un po' estesa, ma comunque importante, del Move to Groove di oggi, dove il tema fondamentale è stato la professionalità. Canestri, non si niente forzature, difesa arcigna e soprattutto non rompeva le scatole all'allenatore, il sogno di ogni coach. Non l'ho messo questo aspetto nella professionalità. Ci sarà qualche, c'è qualche motivo, aneddoto personale? Non l'ho messo questo aspetto nella professionalità, però sono molto felice in questa mezz'ora di aver ritrovato Pietro ai microfoni del Move to Groove. Ovviamente ti aspetto, impegni permettendo, anche il martedì prossimo. Grazie per il tuo contributo. Grazie a te, Willy. Per il format del martedì. Intanto restate sintonizzati sui 103.1, perché a breve avremo un last minute letterario con la presentazione del lavoro di Massimo Carlotto questa sera e il dialogo con Alessandro Berselli. Il lavoro edito da Einaudi è intitolato semplicemente Trudi, e tra pochissimo ne daremo anticipazione nel last minute letterario. Grazie a Paolo Nofri. Pietro, se vuoi restare in studio, a me fa solo che piacere. Grazie. Intanto a te, grazie. We'll be right back.